attenzione, 10. E beh, Ciccio, butta giù la pasta che è pronta. Ciccio, butta giù la pasta. Chi è là? Attenzione sul canale 10. Buonasera, Luca, stazione Floppy da questa parte. Ciao Luca, mi hai sentito, dai, di più. Salute Gianni. E allora, com'è andata questa giornata di sole? Stamattina c'era una nebbia a Porto Torres, che la nave è entrata quasi alle 10, è rimasta in rada e suonava la sirena ogni tanto per segnalare la presenza, perché c'era un muro di nebbia impressionante. È il cambiamento di temperatura, dall'umidità al caldo fa questo effetto qua. Io mi ricordo quando lavoravo a Porto Torres, facevo solo sul vidriarsi sempre con la nebbia. Lo fa, in quella zona lo fa. Com'è andata? Oggi sono stato in casa, dai, ho fatto tutte le pulizie, le cose, le faccende. Quando vivi solo devi fartele. E io invece uscito dal lavoro adesso. E già passa la giornata, e cosa devi fare? Sono cose quotidiane, se hai un po' di tempo, dice, se non hai di tempo, pazienza, fare le cose che devi fare, c'è poco da fare. Ma non è entrato nessuno. Gianni, può comare. Ciao, avanti. Beh, già, mi sono entrato adesso. A lavorare. Sto facendo un lavoretto, no? Ho mutato da quello là. Sto a fare un lavoretto. Ah, uno extra. Vabbè. E vabbè, quando ce n'è sempre meglio farli, dai. Adesso recuperi. Proprio con Luca, lui si è. E sta mangiando Luca, si sentiva che stava masticando. Come sono in compagnia di Luca in Gran Italia, dai. Avanti Luca. Ciao Luca. Mi sto mangiando un pezzo di finocchio. Guarda che poi ti contagia, diventi anche tu finocchio. Chiamiamolo che lo sono, se cazzo mi contagiano. No, io non le mangio finocchio. È difficile, dai. Però ma li facevo anche cotti. Però Gian, mi piace appoggiarlo, se vuoi te lo appoggio, E cosa appoggi? Mi masci di piazza. Se vuoi te lo appoggio, non c'è problema. No, io sono di diversa squadra. Avanti Luca, via l'Italia. E io mi sto mangiando due mandaranci invece, così mi fanno la bocca buona. La dieta come va? A meno 12 da quando ho iniziato. Beh, già va bene, dai, quanto sei la stai facendo? Dall'inizio di dicembre. Io avevo sceso 50 kg in un anno. Proprio senza mangiare allora. Allora io 1,77 per 81. Cappeggia, va bene, dai. No, senza mangiare, mangiando regolato. Mezzo panino svuotato alla bollicca, insalate, una fettina di carne, un arancio, cioè mangiando così normale. All'inizio già stavo crepato di fame, ma poi mi sono abituato. E io mangerei pizza tutti i giorni. E anche io, se per questo. Però, vabbè, non bisogna mai esagerare, dai, poi un fisico ti domanda un conto di zia di Sassarisi. Infatti, e soprattutto per quello, perché gli anni passano e bisogna cercare di affrontarle al meglio, è per quello che mi sono messo a dieta, sennò il cuore pompa troppo. A me già mi ha fregato, dai, oramai dietro non posso tornare, oramai il diabete me l'ho preso e ce l'ho, e buonanotte. No, io dopo che sono stato male 2 settimane fa ho fatto tutte le analisi del sangue l'altro giorno e non c'ho un valore fuori posto, tutto regolare, cioè degli esami del sangue bellissimi, grazie a Dio, almeno quello, perché ero un po' spaventato. Meglio così, però sai cosa succede? Che ti spaventi quando ti trovano qualcosa, quando avevo trovato il diabete ho cominciato a fare dieta, non accettavo manco una caramella, niente. È quello, che dobbiamo aspettare sempre le brutte notizie per avere lo stimolo. E allora, Luca, e tu cross e combinato di bello. Stai andando in palestra? Io no, ancora non mi sono iscritto. Ma no, lavoro già. Lavoro a casa e poi fine settimana esco. Vado a cercare le donne, ma non le trovo mai. Non dire male che ti ho visto, guarda, a te che ti ho visto con Chiri, non parlo. Marina, ma non sono con Marina io no. Amici c'è boh. E come tu, un tavolo siete amici, giusto? Sono uguale. Cavagata. Ho visto due poliziotti, capo. Ho detto, ma questi qui mi pare che li conosco. Ah, no. Sono da solo già da gennaio scorso. Ah, ma noi pensavo, vabbè, ho pensato che ti eri rimesso. Infatti ero contento, e deve essere che hanno trovato una soluzione. No, no. Cavagata. Andate. Riprendi Luca. E adesso, con queste belle giornate, oggi mi sono comprato gli zinchi per la barca, ho ordinato l'olio e quest'anno grandi manutenzioni. Adesso il sabato e la domenica lo dedicheremo a quello, così a fine aprile la mettiamo in acqua. Ma a terra ce l'hai? Nel capa sì, a terra, non la tengo in acqua in inverno, anche perché dove la tengo io non è un porto chiuso, è un porto a palafitta e galleggiante, per cui quando entra mare entra a vero e non devo usare rubinsamento. Invece a fine, diciamo a metà ottobre la faccio togliere, la mettono sui piedistalli e sverna lì, tanto io passione di pesca non ne ho. E poi se la lasci in mare ci attaccano i denti di cane. A cavalli un casino. No, ma infatti, adesso mi inizierò coi piedi, perché devo fare le cuffie dei due piedi propri e gli zinchi esternamente. E poi passo all'interno e faccio il cambio dell'olio e dei filtri ai due motori. E per quest'anno siamo a posto. Poi come inizia la stagione a aprile, la faccio mettere in acqua. Oh già, mi aspetto un attimino, vado da Podica a prendermi due pizze, dai. 10 minuti, c'ho fame, non ho manco pranzato. Ma sono parenti tuoi, Podica? No, assolutamente no. L'ultima che ho preso erano un po' bianchine, non mi sono piaciute, a me piacciono un po' croccanti, non troppo, il giusto, erano bianche, non mi sono piaciute, adesso vediamo un po' stasera. No, lui sono buone, io le prendo qua giù, però non sono come quelle lì, quelle fanno, mettono molto formaggio, qua le mettono appena te lo fanno appena vedere. E poi a volte non è bello sciolto come quello lì, invece dove le prendi tu da Podiche che fermarsi in macchina è un casino. Lo so, dai, arrivo subito già. Io sono otto già a maniche corte. A maniche corte? Sì, anche adesso. Qui da te, no, io sono un bagnolo a collo alto e mi metto anche la sciarpa, quando scendo giù a portare il cane mi metto la sciarpa e il giubbotto, quello da neve, quelli grossi. E vabbè. No, non bisogna mai eccedere, dai, magari ne approfitti e li briga che maranno. Ma vabbè, ce l'ho smanicato, non so perché ho maniche cotte in maglietta, l'ho smanicato sotto, sono smanicato, ecco, diciamo così, dai. No, arrivo subito, se prendi Luca. Vabbè, prendere anche 4 per me, io me ne vado. Luca, guarda. Mi state facendo venire la fame. Che cattivi, no? Che gli facevo la me? Prendi una caramella che non ti fa nulla, niente, non voglio niente. Non la prendevo, anche se gli offrivo la caramella, non la prendevo, ero proprio tassativo in tutto. Come avete nominato le pizzette, ho sentito il sapore in bocca e già vedevo il bancone di cocco. Uia. Non so dove le farò un bel buone. Ci viene grazie a Deleda, vai lì, appunto, che dove sta andando Luca adesso, comunque sono buoni, sono croccanti e hanno un bel formaggio, proprio buone, ti fa piacere mangiarle. Già lo conosco il posto, ma io abito dall'altra parte della città. Qua c'è una pizzeria a cocco in piazza Sabato Ruglio, è aperto qua, e già sono buone anche quelle. Ma cocco con il mio rosello? Sì, cocco di via Rosello c'ha 3 punti vendita, via Rosello, l'emiciclo e piazza Salvatore Ruglio. Tu pensa che in quella pizzeria, quando andavo con mamma a fare la spesa al mercato, ogni volta facevamo la pucciatina lì, andavamo e ci prendevamo sempre la pizza al taglio. Sempre, ogni volta che andavo con lui a fare la spesa, quando ero piccolo, figurati quanti anni c'era la pizzeria. Eh sì, io ci vado sempre quando seguo la vestizione dei candelieri, poi all'ora di pranzo andiamo tutti gli amici e ci prendiamo pizzette e fainè, proprio lì via Rosello. Buona reddi, cura fame. La fame mi bacia tutto, però c'è anche la scelta, dai. Ma io prima li ordinavo da cocco, poi tutto online, farlo, adesso a me mi piace telefonare e parlarci con la persona. Perché se vuoi qualcosa in più, tipo l'origano, certo non è vento, a me piace con l'origano, la pizzetta al taglio, oppure se la voglio con l'aggiunta e cosa, non mi piace online fare gli ordini, mi piace più al telefono. Beh, sempre l'occasione di fare due passi e due chiacchiere. Eh sì, vabbè, io non sono lontano, perché sono dietro via Bandetta, quindi non sono tanto lontano da via Rosello, però preferisco, io ce l'ho qua sotto la pizzeria, ce l'ho proprio, esco dal portone, ce l'ho a fianco e me la preparano, però a volte non le scaldano bene, sai, le pizze le preparano da prima, qui ci buttano il formaggio sopra, la mozzarella là, e le condiscono con un po' di sugo e poi le mettono nel forno, ma a volte non sono calde come dico io, a me mi piace proprio calde, no, tiepide. In via Baldetta aveva aperto la pizzeria il figlio di un amico che si chiama Federico, lui era pizzaiolo prima alla pizzeria La Roccia e poi si è messo a conto suo e so che è lì in via Baldetta. Ma dove? Vicino al tabacchino? Ma non lo so esattamente a che numero è, perché io non ci sono stato, però è un bravo pizzaiolo, aveva vinto anche dei premi come miglior pizzaiolo di non so cosa, avevano fatto le gare a livello nazionale ad Arbatax, se non sbaglio. E niente, so che lì in via Baldetta, dovrebbe essere di fronte al Residence I Pini. Ah, ho capito, sì, ho capito. Allora è più giù di quello che sto dicendo io. La pizzeria La Roccia è di una amica mia col marito che l'hanno aperta. Buonasera a tutti. Ciao Sampi, allora, com'è andata oggi? Bene, c'erano i maranzi al monte. Non hai visto un refa di mancanti. Maranzi, a chi non ti maranzi bisogna? Ho letto un articolo dove dice che c'era una BB gang che dice che avvenne un casino nero al monte. Hanno aperto quelle macchinette che danno la Coca-Cola, le bibite, eccetera. Hanno aperto una di quelle. Lo stavo guardando su internet e poi mi ha chiamato un'amica, sono andata a rispondere, sono ritornato e non l'ho più trovato. Ma già lo trovo stanotte che ho ucciso. Sono tutti minorini, li hanno tutti presi. Io ho visto il video di adesso non mi ricordo se l'ha messo lì su 41, chissà immagina te 41. Ecco, le marce, sono passati una grefa di questi ragazzini su 17-18 anni, stavano facendo un casino, hanno aperto tutti i cassonetti, hanno alzato, e a me mi ha dato un po' di fastidio, ero col cane. E gli ho detto cosa? Ho detto, ma ti senti realizzato facendo queste cose? Tu apri il cassonetto, poi ve lo copro di vetro, le butta tutta la mondezza fuori e come? No, stavamo giocando così. Poi sono andati, hanno dato un colpo al palo, cazzo, Massi Lugani. Se non lo tengo, cazzo, di salta addosso. Uia, bubu, l'usibidu, dai, non funziona l'usibidu, mi ripuri. Ma ne vengono maragni di esattata l'usibidu a chi si va. E la fase di media vaggia. Si rovinano la reputazione e rovinano anche i genitori, perché, sai, chiamano i genitori in questi casi quando sono minorini. Oh, ma quelli dell'altro giorno si mettevano a gridare, dicendo cosa, non so che cosa uno con l'altro, qui muovevano tutti i pali delle segne stradali, delle segne dove c'è il cartellone della pizzeria, eccetera, della segnaletica stradale, insomma facevano un casino nero. Poi sono passati vicino a me il cane, quando vede con tanta gente così rimane sul chibarà, capito? Ebbene, a chi dici mai no? Perché poi il cane c'ha l'istinto, mi dici, ma chi si bravi o marito? Mi avare il basso, perché quando mi sa forfaccio al culo, arrivati fuggendo. non si rivede a correre. Però quando provo un giorno, sono passati di queste greffe così, curredi, ma giocando però l'ho tra di loro. E l'ultimo che è passato, tesoro, prima era Buntella, quello che l'ha fatta pure, se l'ha brincata in alto, e lui, oh, ragazzi, ha fatto un brinco. E beh, vi posso immaginare, a me mi ho fatto una dormita poco fa, stamani dovevo andare a una riunione e non ci sono andato per il coso del fatto dove vado io a fare terapia. E comunque praticamente andavo qui a questa riunione e non ero concluso nulla, perché praticamente ci vogliono buttare fuori dopo decine di servizi lì al centro di accoglienza di Sarazzinia a San Pietro, al Diustis, al secondo piano, e ci volevano tutti mandare al centro trasfusionale del Palazzo Rosa, dove c'è il dottor Manca. Ma sicuramente c'è una manfrina di dinari, barista Gosa, perché noi quando facciamo terapia abbiamo tipo la giornata ospedaliera ricovero, no? Però fai tutto in giornata e quindi alle 2 io sono già a casa. E sicuramente c'è qualche giro di cash. E a noi l'accusa che siamo un po' adulti, adesso ci vogliono fuori, perché se c'è qualche lamentela che chiediamo qualche consulto non li biasi più. E tu pensa che io ho aceto diabetico, l'ho cambiato 3 volte il posto e non mi hanno mai avvisato, andavo lì e mi dicevano, ma non c'è più qua aceto diabetico, come non c'è più? Io sono sempre venuto qua, sì, ma adesso l'hanno trasferito. Ed era di fronte, poi ha rizzito, poi che da, a tutti i rimasti da di busco, a base sono firmati, ma qua. Eh sì, però vabbè, ma da noi se non c'è un decreto firmato da, come si dice, dal primario, perché il primario ha detto che non firmava niente, non firmava niente perché non è matto, ma tutti i vasi VG, tipo 40 pazienti, magari cosa ne so, a XX mi levo a ricovero. Tutta la missione di Nai. Avanti, Luca. I Maranza di Sassari non hanno mai avuto babbo, se no noi la lista di Maranza. I delinquenti sono Maranza, sono teppisti e basta. Eva, quando sono col cane non si avvicinano, fanno casino, perché non sono della zona mia, no? Scendono verso in giù, verso via Maldena, lì passano in via Monolva, attraversano, poi vanno in via Monolva e poi scendono giù verso via Maldena, quindi non sono di zona. Ma fanno passando e facendo casino, adesso Cassoletti non le trovano più perché li hanno tutti. E che cane c'hai? Uno sciampi. Ciao Luca! Ciao Sampi, ti sento lontano oggi. No Sampino, Sharpi! No, ha giù compreso, ero usato bene da Gianni di Sorsa, Sampi. Io capito, era la battuta. Eia. E tu praticamente c'hai quel cane che c'ha il vestito più, 2 taglie più grandi, no? Allora, io ho lo Sharpi cinese, non è quell'americano è quello che è incrociato col Chouchou. Ed rimane quello tutto a grinza eccetera. Io ho proprio la razza base, la razza in partenza come è nato lo Sharpei, poi ha avuto diverse evoluzioni, l'hanno incrociato con altri cani eccetera. Io ho proprio lo Sharpei quello puro. Ho capito, quello color miele che ha le grinze sulla fronte e basta, poi il resto è asciutto. Esatto, sì. L'unico difetto che c'ha il mio è che è nato con la coda tagliata, tutti dicono ma gli è tagliato la coda, no, ce n'è un pezzettino solo, e vabbè che lo Sharpi ce l'ha corta e girata verso l'alto, no? Si vede molto il sedere, che praticamente rimane il sedere scoperto, rimane verso l'alto, invece a lui gli manca la punta proprio. Sì, ce l'ho presente, già lo conosco. Io invece c'avevo un cane che faceva buttafuori di quelli grossi, prepotenti, afferratori, un bassotto, un cagagazzo. Il bassotto è terrioso, ma no. Io quando li incontro i bassotti sempre abbaiano a taglio, quindi si alza su 4 zampe per andare a musicare, cioè, ma dimmi tu. No, perché il bassotto, in testa sua, pensa di essere un Doberman, solo che l'hanno arrivato a maniche gocce, quindi non c'è il fisico, ma lui è convinto, cazzo, è prepotente, però qua è di una simpatia unica, cazzo, affettuoso, cazzo, vedi, sempre innanto. Purtroppo se n'è andato, perché si è ammalato forte, ci ho speso l'anima dei soldi per cercare di tirarlo fuori, però non faceva più, peccato. E adesso sto aspettando questi 5, 6, 7 anni che mi mancano andare in pensione per riprendermi il cane, perché ora come ora col tipo di lavoro e gli orari che faccio non ce la faccio a prenderlo e a gestirlo, ma come vado in pensione me lo riprendo. Avanti. Non sto uscendo nel radio. Caso c'è Pomponio? No, negativo. Oh, grazie. Ciao, pochino volevi parlare. Bandiera gialla. Bandiera gialla, ciao, ben sentito, dai. Doppio ruolo da questa parte, in compagnia di Luca da Via d'Italia. E poi c'è anche Luca Manicomio, ma non è ancora ritornato, dai. Va bene, se vuoi restare, resta, se no vola a questi greci. Arcanica. Ma come ti chiami di nome? Ma il prato comunale? Sì. E allora ci conosciamo. Codazzi. Sì. Fare infermiere? No. E allora lo sei tu, dai. Perché ce n'era un altro, facevo l'infermiere all'ospedale, che parlava da lì. E stava cominciando, poi non ha mai piazzato l'antenna, se l'ha comparata e poi non ha mai piazzato. Avanti, Giuseppe. Va bene, ok. D'accordo. Luca, riprendi. Stavo messaggiando col cellulare, che non si finisce mai di lavorare, anche fuori orario. E va bene, il pulsante viene sia. E appunto. Purtroppo è così. A me a volte mi chiamava fuori orario. Poi, Gianni, c'è una cosa urgente da fare, cazzo. Ma no, nemmeno piace a mangiare, mi lascia la mangiare in pace. Infatti mia moglie mi diceva spegniti il cellulare quando sei a pranzo e così almeno mangi tranquillo. Lo so, però se lo spegni ti vengono gli scrupoli, perché quando uno è attaccato al suo posto di lavoro, in coscienza non ce la fai a spegnere il cellulare, perché sai sempre che comunque se ti chiamano è okay, perché c'è un'urgenza. E appunto, quando c'erano le navi specialmente da rifornire, che prendevano un po' di roba, prendevano casse di verdure, bibite, di tutto e di più, un camion di roba li portavo, salivo sopra la nave e scaricavo da dentro. La spesa per l'equipaggio non doveva essere poca, e poi non solo per l'equipaggio, se poi avevano passeggeri comunque danno il servizio di ristorazione, quindi sicuramente ci andavi pesante. E la carne che prendevano a pezzi grossimi, a cusce e cose, e poi la tagliavano loro, si prendevano meglio in roba, quindi non potevi perderti una vendita del genere. Poi pagavano in contanti, mi davo la fattura, andavo nell'ufficio del comandante, pagavano in contanti. E il commissario di bordo di solito tiene la cassa. Vabbè, nell'ufficio pensavo fosse il comandante, ma vabbè, comunque pagavano subito e poi facevano un bel di spesa, capito? Quindi c'è anche, perché pure la nave doveva partire, capito? Quindi dovevi andare, quando c'era la necessità dovevi andare. Eh sì. Oggi però non si sente nessuno, ma sono tutti ascoltoni. Vabbè, già entrerò, forse sta lavorando Carlo, perché se no sarebbe entrato a quest'ora. Poi è uscito, sta lavorando, perché fa i turni, quindi. Solitamente c'è lui che risponde, quando io faccio un break risponde lui. Ma anche Pomponio non lo sento da diversi giorni. Ma Pomponio non è che sia così, non è che entra sempre, capito? Entra ogni tanto, non entra sempre tutti i giorni, dai. Comunque io fornivo anche le imbarcazioni, le petroliere, praticamente portavo la roba alle pilottine, agli ormeggiatori, dai. E gli ormeggiatori con le imbarcazioni portavano la roba alle navi, alle petroliere. e ti sgobbavano qualcosa. Ma sono pagati per fare queste cose, è quello che sono pagati, è un servizio che fanno, no? Gianni, passo un po' un attimo in bianco e rientro subito, che mi ha squillato mia mamma qua dall'appartamento di fianco, e vado a vedere se gli serve qualcosa. Via. E adesso come arrivo già? Prova. 1, 2, 3, prova San P, sorso. 9, 10, San P. Ehi, ragazzi, su, chi sa locomotiva minorista. Uia, uia, uia. Chi era Luca Pedifella? No, guarda, non arrivo io adesso. Prova. San P. Ehi, ho detto prova. E la sua comprovede, la paita. 1, 2, 3, 4, 5. Quando scala tutto zembo a chi il tuo remitter me uno e tutti una serve però il bieno. La modulazione buona. Ehi, ehi, a forte chiara. Cavagliamo. Va bene, dai. Anche adesso ho attaccato la stufetta. Che c'è freddo. E beh, adesso come sta a fare la rintori già? No, ma l'attacco è andato con la video, adesso non ce l'ho più. Intanto l'attacco per vedere se andrei fatti giusti, dai. Buonissimo, dai. Questo della CT è bellissimo. E io ne ho uno della Midland 747 12 volts, però uso sempre questo 131 della ZG. Ah, 131, ma 747 come fate lo stesso? Che non ti credi che ci arrivi di più quelli del 131? Ehi, infatti, se no tocca attaccare un alimentatore, ci vuole minimo un alimentatore da 30 A, invece questo è a 220, a tutto fugace. E vabbè, mangiamolo bene, quei 747 ti aumentano anche la modulazione, lo sai. Io lo usavo in macchina e arrivavo a Sassari 9.10 da Porto Torres, facevo tutto il viaggio 9.10, 9.5, 9, ma meno di 9 non arrivavo. Ehi, ma sono buoni gli apparecchietti, io l'avevo preso, quello 747 l'avevo comprato nuovo, ma un bel tempo fa, ne avevo pagato 50 euro mi pare, e ce l'avevo nell'armadio là, però un giorno l'ho attaccato anche se avevo l'alimentatore buono, però non mi soddisfava che devi attaccare tutti i giorni, sulla scrivania c'erano troppe cose. Io non so cosa uso di alimentatore. Quello che c'è nel computer, mi sono fatto un interruttore sopra e va la grande. Non si andava. No, io c'ho uno switch di questi cinesi e 50 A, però me lo devo cablare, quindi mi ho fatto la scatoletta di legno con i buchi, con le cose, con tutti i pasti per agganciare e niente, quando ha tempo Davide me lo rigureggia a 13,8 magari me lo aggancio. Buonasera, buonasera, io vado in motocoltivatore già, 14 gigawatti, riprendi, buonasera Gianni, vai Gianni di Sorso, motocoltivatore vado già. E poi guarda a me, uia, e allora so fatte già poco di battaglia. Andave ben ascoltato. Ciao bambino, ciao. purtroppo molto che il motore serve per altro. Brazzi vivoni già, ci vogliono le braccia, ci vogliono le braccia per il motocoltivatore. Buonasera, ben sentite tutti e due. Gianni, sono entrato per dirti che quando attacchi l'amplificatore sei un po' saturo. Comunque, però è comprensibile la radio, va bene, va bene. Un pochino satura, ma staccato va meglio. Riprendi. Ehi, a me adesso l'ho staccato. Ah, Gianni di Sassari, sto dicendo. Il Mickey Gay l'ho sollevato appena a tre quarti, là. L'ho fatto troppo entrata forse, guarda adesso a vedere, capì? 1, 2, 3, 4, 5. Sì, saturo sì, già. Sempre saturo, è strano, perché c'è devi essere olimpico? No, ormai sei un po' saturo già, sei un po' saturo, fatelo dire da uno scemo, sei saturo. Sì, vabbè, intanto non lo uso più di tanto, lo uso solo in occasioni quando praticamente sono molto lontani, se no non è attacco. Ma se sei 9.30 qua, non è bisogno, non è bisogno, già, 9.30. Hai quasi lo stesso segnale di San Pi. Vai Gianni, vai San Pi. Io faccio un attimo di QRT, sono entrato a QRX anzi, sono entrato a salutarvi, dai, niente, niente di che, vi lascio al vostro QSO, vi lascio al vostro QSO. Vai San Pi, tira di Daria. Eia, eia, vari di Rularia, rimango ai di benzina e mezza Luca Giulio, Romacco va più il punto qua. C'è un goldone, brazza rete che vuole, come hai detto tu. E forza ci vuole, perché c'è da dare in culo, c'è qualche breda, qualche cosa, come è? Fanno più che mi danno, l'hai recuperato un trattore, 30 cavalli, 4 ruote motrici, quello della... rimane azzurro, bello, quello tipo indiano. Adesso non mi ricordo che marca è. Vedo, mi c'è motore Mitsubishi, tutto tecnologico, fari all'osseno, roll bar e cantisì. L'ho preso con il trincia e con il e con l'aratto, per, non l'aratto, con quello per come si dice, fa girare a terra. Comunque da ogni chiusa Buffuretti in Thailandia c'è mia figlia, no? E mi ha detto che c'è questa imbarcazione che porta nelle isole col motore di un trattore, cammina. Ehi, allora visto chi si cazzo sono ammazzati, non è proprio un motore maggiore, duro di zitto, con la turbina, con tutto il gas, con i pacchetti longhi longhi, ui ui, ogni andato nel bel di cappone, cammina, con si ricapputteggia già. Sì, prego di no. Che c'è mia figlia adesso. Si chiama il batteliere, ha un motore, ascolta, ha un motore che lo mettono in moto ad aria, è un 12 cilindri ed, è un, ed era un motore di locomotore di un treno, è un motore che ha 65 anni, lo mettono ancora in moto ad aria, è un motore, è un VM che mettono in moto ad aria. È un 12 cilindri e ogni cilindro ha il termometro, diciamo quello col mercurio, che dice ogni, in ogni cilindro quanto, a quanti gradi è la testata. È immenso, è immenso. Se poi San Pi, se ci fa caso, lo può ascoltare. Quando c'è quel vento di tramontana, no? Quel venticello di tramontana, e si affaccia al terrazzino alle 5 del mattino, si sente lui a 4-5 miglia fuori, si sente tototum, tototum, tototum, tototum, tototum, tototum, e ce l'hanno sempre quel motore, non lo mollano. E il peschereccio momentaneamente è più veloce perché raggiunge una velocità di 14 nodi. Anche motori turbo massimo 10-11 nodi, quello lì è un aspirato 14 nodi, è un motore VM 12 cilindri, era di un locomotore già. Vai San Pi. Già si sente la mattina molte volte all'albigio, già il rumore rimbomba tipo verso Sinori da mare, ed è come adesso tu fai questi rumori, comunque infatti sì, la saluta a Davide, gli ho detto buh, cazzo, ma sta capitaneria, così chi tu dice, ma no, no, è capitaneria, no, ma di tu chi sei peschericcio, ma di tu chi sei, chi su camminami. Sì, sì, sì, sì, quello è il battelliere. Quello è il battelliere, è un peschereccio che ha 65, non mi ricordo se ha 65 o 67 anni. Tu pensa che per fare la retromarcia c'ha una specie di clacson. Due suoni, va a marcia indietro. Un suono, va a marcia avanti. Perché il macchinista prende e mette la marcia indietro e la marcia avanti da sotto coperta. Ed è un motore VM, 12 cilindri. Ed è veloce, fa 13-14 nodi quando è pulita, quando lo scafo pulito. Quindi... un mio motore, io l'ho visto, è immenso, è immenso, è alto mi sembra 2,50 metri, 2,60 metri, ed è lungo 10 metri, prende quasi tutto lo scafo di sotto, tutta l'opera viva prende. La cosa è che mette in moto d'aria alle bombole, quelle tipo acetilene. Loro prendono, mollano le bombole, aprono la manetta dello sfiato, lui mette in moto. Una volta che mette in moto, quel motore non si spegnerà mai. Per spegnerlo ci vuole mezz'ora. Davvero, per spegnerlo ci vuole mezz'ora, perché chiudono il gas, chiudono la manetta e poi lui va piano piano a decompressione, per una voce che è molto chisso, è un casino. Vai Gianni di Sassari e poi riprende Gianni di Sassari che sto cucinando. E come ti ritroviamo a cuore, chissà chi è stato l'ingegno, di chi è stato l'ingegno a piazzare quel motore con l'imbarcazione. Ma sono questi centenari, hanno 80 anni, 100 anni questi pescherici, sì, li cambiano le travi, li cambiano, però sono tutti secolari o quasi. Ehi, amassicciso, da voi con quel motore lì dovrebbe avere una bella corazza quel pescherici. Beh, è un motore pesante, chissà, se non si sbaglia molto. Io no, ma si intendimi, da Gaggia si intende un manzano, vedi molti di segnali guasti di manzano e poi si sentono la mattina verso le 9, deve essere rientrante. E fa quel rumore che ha detto Gavino, quasi tum, tum, tum, tum, tum. E se rimbomba a Bogu, no, che nella montagna di Sinoli dove c'è la circonvallazione, si sente veramente. Quando c'è anche mare calmo, quando c'è vento di appena di vento di Gosu, si intende ancora di più. Io lì con la circolazione andavo a prendere le paste, i dolci per la ditta. Su. E al Giglio, come si chiama? Mi pare si chiama il Giglio su. Sì, il Giglio si chiama. E roba, figlioli, di ricche, di tutte di più. Ogni volta andavo, perché il periodo dei santi e cose, finivamo, le pigliavo un me e lo finivamo subito la roba, quindi mi mandava a me a prenderla perché lui non ce la faceva venire. No, fanno roba buona, fanno. E poi soprattutto visti che hanno fatto nei rigustoli, buonarelli sono quelli tipo a numero 6, a forma di B, che hanno il coso del mosso del vino in mezzo. Mamma mia, se non ti fermi di chi si me ne mangio. Solo che, lo sai cosa, me ne mangio due o tre e mi fermo perché sono dolci, no? Sono troppo dolci a livello... se no mi scampa nel stomaco, perché io amo più il salato del dolce. E sava, la sava. Esatto, la sava. Invece i gagiardini sono fatti di formaggio di pecora, mi pare. E è un formaggio acido. Cacca, buona rete, sono visti quando li faceva mamma, i nobili, con nonna. E su cosa era? Faceva una barinista di ghissi, un'altra barinista e una guiburida di ghissi gusti, che poi faceva gli amaretti. E poi faceva anche qui i pappassini, però li cappavano, li mettevano quelle perline colorate di zucchero. Di aurini. Bravo, di aurini. Madonna, rubelio di bacca cosa era, ogni allegria dopo pranzo, coro mio, mente mia, bella mia. E mi associano era un bel bravo, faceva tutto, faceva seare, faceva i biscotti, sapoiardi, e faceva col forno normale, vedi? Quando faceva gli amaretti duravano un mese morbidi, cazzo, buoni, saporiti e buoni. Perché poi rimanevano tipo croccanti puri e dentro rimanevano tipo morbidi, con quella specie di sapore dolce, amarognolo, caramellato. Boh, non lo so, lì se mi rimaniamo tipo due o tre, poi se mi mangiavo due gozzolisti, non mi stasi più niente, perché le calorie erano, a 2000. Buoni sono, se no, come si chiamano, le castagnole ti piacciono. E pure questi sono buoni, sono fatti di pure lamaretti, però hanno, e sono fatti in maniera diversa, tipo a fiori sono fatti, da. No, sei maglietti. Le castagnole sono tipo frigioli dolci, con la crema dritta. Ah no, no, allora no, non ho mai mangiato di chissà, io mangiavo tipo, sembravano dei bignettini che li mettevano la mandorlina in mezzo a me. Cazzo cos'è da ne chissà dove, erano buoni, però non lo so come li facevano. Allora la mattina, vabbè, ce le portavano da diverse parti le paste. C'erano anche dei forni di pane che ci portavano le paste. E il coso l'autista ci portava sempre le paste anche per noi, a parte, per i magazzinieri. E cazzo, prima di un prigione di cosa arrivava, erano ancora galli che non si era arrivato. Immagino, roba buona appena arrivata, buona ridda. Come se noi quando faravamo tipo a Porto Torres, all'alto fondale, allora si poteva entrare, se ne andavamo a pescare con la canna da pesca, oppure curare in San Mano, va via, il coppo fatto a campana, va via, mi volgannao, uia, partiamo a chiedere un beneficio, vedi a vedere quelle focaccine tipo salate, pizzette tonde, oppure ce le facevamo fare quelle pizzette grandi, non pizzette grandi, quella pizza da un metro, tipo margherita e l'altra metà tipo non lo so, con olive, cipolle, madonna cos'era, era mia bisogna pescaggia, da noi abbiamo una ghiaccia di birra fresca, lo stereo a tutto zembo, ogni addanzo ducava in pigna la macchina, ma con la immorta, finse che era batteria, senza si sruciava questa casa. Però era poco perché eravamo una bella greppa tra maschi e femmine, ogni addanzo bigliavamo un poipo, una gana da becca, gli mettevamo il tappo della birra nel rotolino del mulinello, come si battia, si c'era un ciuccurino, e poi a me deve avere il risalto una libera, amico mio, come sta tirando, già si è pigiato da poco la gana da becca, allora c'è una stato già, adesso una gadria vecchia, c'è una stato da fuori. Inizia il mare, e invece la mia prima piccando l'ancora, la voce, quanto questo è grosso, non riusciva a tirare, gli bloccava il mulinello, se non c'è gente da giù qui, ma non c'è si tira, e no, pesante, non è che si muove, e non tirare l'ancora. Chi da voi noi siamo attrezzati, abbiamo fatto un pezzo di mascella tipo da 40, con tutti i canti di giovi, e poi ci avevamo fatto un raschetto con una specie di bastone lungo, di cui su bai bianchi nani, però era rinforzato bello, quindi raschiavamo le coste dalla muraglia e le facevamo scendere dentro quel coppo fatto a pendolo, il coppo a pendolo ci avevamo con la corda. Poi ne andavamo a sopra, ficciavamo i duplicanti, li chiudiamo in ghivi, a un metro da ne piccavamo. Vedi a vedere risate. Era un amico nostro di tipo la gabbo, no, mi si più maduri, poi mi ne 4 a una parte e si rimagnava, e si rimaneva da poi si vedeva la birretta a tipo a, come si dice, al bacio, tutta una dirada, e si dice, come da goccia, e noi tutti i altri fracassati a sigaretta americana, ridendo come dei volare gabugia. No, io lo stesso lo facevo, c'era un raschietto, come tutti, un raschiavo le cozze, poi le allargavo appena appena, li mettevo la mano dentro e le facevo richiudere, non le devi spaccare perché sennò galleggiano e l'orata non le mangiavi più. E con quelli lì ho preso delle belle orate così. Però usa mi è passato dalla galera al posto del coso della birra, ci mettevo un cucchiaino con il manico piegato, poi lo mettevo in tira, appoggiavo la canna a terra. Quasi hanno bucciato, dopo se mi hanno fatto un murinepa della dirata che ha fatto. Io, no, ma quelle che schiacciavamo le buttavamo per brumeggiare. Poi facevamo come struttura, mettevamo dentro l'amo, dentro la cotta, e ci avevamo, io avevo buscato un paio di lacci mortattici e li tagliavo tipo a rondelline, no? E poi li mettevo quella punta espansione per rimanere chiusa, però la lenza che usciva dalla cotta c'aveva un tubicino di gomma, di silicone, anche durando un di musica andando a ficciare a nozza si spaccava tipo la lenza, no? E quindi facevamo, seguivamo tipo la muraglia, lui ad annusare andava, ogni cosa fuga di gabbio. No, senza anche un latte massiccio. E tipo poi a mattino presto, una via, le quattro, cinque, un bacino a maneghi, due riviccio, un garfile, l'altro, e gliele prendevamo. E niente, ci divertivamo così. No, io non me ne vendevo, già me la ripiavo a casa. A volte le ho regalate, ma a vendermele no. Me l'hanno anche chiesto, a Platamona, le ho presi una quasi 4 kg, meno uno mi ha chiesto se gliela vendevo, ho detto no, questo qui per me è un onore averla presa, la devo portare a casa, che c'è un trofeo. Ehi, no, ma io preferivo quando uscivo in gommone che pescavamo diversamente con il palametro, quindi saraghi, orate, paraglioni, visti saraghi rigatti, saraghi reali, quelli con la macchia nera vicino alla coda, invece gli altri erano quelli che avevano le righe in pitorra. Poi prendevamo qualche spigoletta, siti, quello era buono il pescato, ma di chi non lo so, rimanevo sempre suscettibile a tutta la gente, mamma mia, guarda così mi toccava il tubino alla macchina da buco, e dovessi toccare il tubino di Casulio, ma cosa? Queste sono pesci disse, se vai a Malvasia a pescare, dopo che parte la nave ci sta la schiuma galleggiando per mezz'ora e lì vanno a pescare, ma io non ci sono mai andato. Io andavo al molo a Porto Torres oppure dove c'è il distributore delle imbarcazioni, l'ho visto lì, al passetto. Andavo lì tra dove passavano le barche. L'unica cosa che c'era è che se passavano le barche ti rimuovevano la lampada alla galla neva, l'avevano già fatto una volta, il pescherino dice, ma l'ha fatta apposta a passare la rasetta perché c'era il posto. E passato la rasetta e va migliando la galla. Ho capito. No, ma noi brincavamo in da muraglia ne vera tipo l'entrata di chi garage mano, con questa specie di stabile, non lo so se c'erano dei generatori di corrente. E quindi scendevamo fino in fondo giù alla muraglia del porto dove entravano le gasoliere, chi che carregavano la sabbia, la dreghia. E lì era bello perché c'erano i lampioni grandi, cavolo, e quando facciamo la brumeggiata le orate, lo sai come si vedevano tutte quante il casiame, mimi, lei nella stesa di luce, non è bella lampadini sotteva, cosa era, però c'era il coso che dovevamo salire quel muretto e lo dovevamo saltare e cosa avevano fatto quelli del forte, gli avevano messo del grasso e quindi dovevi cercare i punti un po' più strategici, baffarà. Guarda, una cosa dopo doga da voi noi eravamo tebbi di bucad. Invece dove hai detto tu, lì c'era un'altra greppa che lì andava invece a pescare i calamari con quella specie di pesciolino finto. Era artificiale. Io ce l'avevo rosa, lo usavo quello rosa che ne beccavo un bel, più che a calamari seppie, io ho preso anche 12 seppie in un giorno. Ui, a Monaredi sono buonissimi, le fai tipo un po' ripiene o se no le fai tutte a rondelline, tipo di soffritte lì con quel pane grattugiato di panino. Ui, a Monaredi, da voi ho capito una viaggita di vino. Io le facevo con i piselli erano buonissime, sono tenere, anche se erano grandi erano tenere, capito? Le facevo subito io, li tagliavo e li mangio su. La cosa, l'osso lo conservavo per gli uccelli e il resto lo cucinavo, lo pulivo e praticamente erano un buono, un bel saporito. Capita, lunga e no, sono buone come hai detto tu con i pisilli e uia, due tuffi di cipolla bianca, mamma di urti, e hai cosa ridai? Purtroppo adesso non ci sto più andando, le canne stanno ridendo, ne ho 4 o 5 di canne di ferme, il corpo c'ho quello grande per le orate, quello enorme, e se una usa c'è quello da musidora appiccato, e c'erano tutti quanti pescati, siccome mi conoscevano, e gli ho detto, vabbè, qualche cosa avete preso, oh, non mangia nulla già, io c'avevo dei bucconi, ho detto, ma io ci tento, oh, bucconi non li mangiano i nobili, invece, oh. E vabbè, io ci tento, siccome io lavoravo in pescheria, me ne ho preso un po', me li ho fatti, li ho pagati, e me ne ho preso 4 o 5, tanto devo starci un'oretta e basta. Ho buttato due cane lontano e una però di macchina, poi ho messo il cucchiaino, non ho giocato il tempo, mi ho bucciarino, grazie subito, e passato, però forse c'è corrente sotto, non mi hai sentito, prendo la canna, lì lo strappo, cazzo, pesanti, e non ho detto tipo che c'è vicino, siccome avevo il corpo lontano, la scopa, me lo occupi questo pesce che è grosso, sì, sto venendo e non veniva mai, sono chiusi. E alla fine ho mollato la frizione, mi sono avvicinato al cocco, ho tirato la canna, gli ho messo il cocco sotto, sai cos'era? Una taruta. Vabbè, dammi un chilo di più a pesare. Grazie, sto carino e sta dando un micidiale una cosa. Però rimane, mi sembra un po' più sopposa come carne, più grossa come polpa, rispetto al sarago e all'orato. È della famiglia dei saraghi, è più scura, ma è della famiglia dei saraghi. Una sorella si è comparata, dice che Manzano, era un uomo veramente con Bichetti, e ho detto buongiorno, ha mai dato e non ha salutato, vabbè, bisogna dire luci. Prendo, lancio, metto le due canne, ci avevo gli americani, metto le canne con i cucchiaini, non ho fatto il tempo a buttare in giro, andavo pure in lato, mi passi il cucchiaino, l'oranta. È la prima, poi parte l'altra e ho preso un'altra orata, questo qui mi guarda con gli occhi di traverso, appena gli toccato si era fatto le mani, che mi aveva detto l'usicchio, e se ne è andato. Ma ragazzi, i personaggi mica andano a piccare, sono fuori di testa, anche noi già ci riportavamo gli americani, oppure anche i coreani, anche quei coreani pescavamo, però quando non avevamo nulla, che faravamo mai 20 anni, ci avevamo le canne da pesca in coppano, magari con quel coppo a pendolo, il raschietto, e allora stasiamo in ghiere pensieri, da voi i ne battiamo a comprare romagnuzzi, le boccaccine, o le pizzette, e la birra, perché poi la maggior parte dei amici miei abitavano lì dove c'è tipo, non ne so, Viale delle Vigne, non mi ricordo come si chiama quella zona, Villaggio Verde forse, e stasiamo sotto i portici con una greppetta di amici che ci sono tuttora. Guarda, era una risata contemporanea che arrivavo io, mi è venuto sì come mamma mia, la canotti siamo un casino, ed io, perché rimanevo un po' buffone, no? Sai, le battute e dei sorsisi sono sempre un po' pronti, lui ama le risate, e quelli erano anni belli, invece ora non si può entrare più, ora buttino che vuoi andare più a questa zona Moloasi. No, io andavo a Molo Cattaneo, a Molo Asino, a Molo Cattaneo sì che ci sono andato, ma la luce era stabilizzato il mare, non so se sa come Molo Asino, la base per il mare di Gura e dall'altra c'è il molo, no? Praticamente quando c'è il mare agitato, salta il muro, cazzo, devi trovare il momento giusto per scappare, perché se no ti bagna. Cazzo, abbiamo pescato con la pioggia di rotto, c'erano delle specie di gabine che usavano prima le guardie giurate, no? Perché arrivavano le gazzelle lì. Se ne andavamo lì sotto quelle gabine, ma non c'era un pesce che aveva un miliardo di chili. Quando pioveva ancora di più ne prendevo, un amico mio era mania di rubare, diceva vai ma con questo di carri imparando, a vedere se mani. Allora ha pigliato una di chi si lavrare, ma mandami, tutti quanti erano gli si mette. Ecco. Avanti. Buonasera, sono io. Ciao, buonasera. Ciao Eugenio. E buonasera a tutti. E allora, come va? Tutto ok, stavo raccontando di quando andavamo a pescare, perché sulle canne sono ferme, sono già 3 o 4 anni che sono ferme le mie. Prima andavo assiduamente, proprio come uscivo da lavorare subito a piccare, mi rilassavo un po' e tornavo a casa. E poi quindi ci sono andato anche adesso di mattina, insomma. Sono andato diverse volte, anche di mattina presto. Adesso all'ASI però non si può più entrare, eh? Attenzione, se vi trovano con la nuova legge c'è il verbale, col sequestro delle canne. Io all'ASI non sono mai andato a pescare, perché sono partito con la nave, la schiuma galleggiava mezz'ora, figurati se andavi a pesci diesel, non sono mai andato all'ASI, andavo al passetto, non so se tu sai dove, che adesso vabbè non c'è più il passetto, però c'erano le ruci prima, no? E sotto quelle ruci lì ho preso certi pesci e da un chilo che ne ho messo, li ho visti anche Claudio, non è che stia facendo male. È sceso anche Giampaolo perché non ci credeva, Giampaolo Silvestro, non mi credeva, diceva che non mi credeva sempre, non mi dico mai. E Ombrine, ho trovato la tavola di Ombrine, la lanciavo sotto gli scogli, poi tiravo appena appena indietro. Cazzo, le Ombrine ne ho preso 4 in un giorno. Perché non ci devo credere? E niente, comunque va bene. All'ASI è un problema, è centrale, eh? Pure città si è cambiato tutto. Vabbè, comunque all'ASI non... Le navi non attraccano più. No, ma io andavo a Molo Cattaneo, quello sì, a Molo Cattaneo che ci andavo. All'inizio, nella prima curva, andavo, non andavo ma qui in fondo. E ne ho preso bene di orati. Ne ho preso lì, ne ho preso la Platamora, con surf casting, ne ho preso diverse, dai, non mi posso lamentare, c'ho anche le fotografie, non è che dico male, c'ho le fotografie. No, perché dici, sta scherzando. Io ad esempio sono tutto negato, non ho mai preso un pesce in vita mia. No, hai preso un pesce in vita mia. In pescheria tanti. Vabbè, comunque riprendi seme, anzi sorso. Ehi, c'avevo un giro, ben ascoltato. Ehi, stavo dicendo già, Molo Cattaneo è quello dove c'erano i relitti, così è. Molo Cattaneo, io entravo dove c'era quella casetta all'inizio, che doveva essere custodi, non lo so, c'era una casetta, una casa lì. Entravo da lì e poi arrivavo alla prima curva. Prendevo il raschietto, raschiavo le cozze dal muro, le facevo cadere nel cocco come hai detto tu e pescavo con le cozze. Una volta ho messo la cozza, poi non ce n'erano altre grosse, sono andato più avanti, ho lasciato la canna con la cozza, l'ho buttata in acqua. Quando ero lontano sento cazzo, una frizione così non l'avevo mai vista. La canna mi sta lampando in leva, lo sai? Già vi credo io. Quindi Euge, tu sei Gattinadori. Scusate, come ci aveva che mi sono allontanato? Oh, come ti arrivo? Bene mi senti? Sì, e ti sento bene, perché? No, così giusto ma vedere se ci arrivavo forse chiaro. Allora, mi sto arrivando, praticamente sei 9, sei più forte di Gianni. Gianni mi arriva 9 a picchi positivi là, tu mi arrivi 9-10 e passa. E lui è vicino. Gappa. Lui dura già. Lui in linea d'aria è più vicino di me. Sì, vabbè, arriva più forma, più forte nel senso di segnale, poi le radio già sono perfette tutte e due. E io ho un Midland 68, un Ara 68, ho vecchio stile Made in Corea del 1983, mi sbaglio, 85. Io un Midland lo stesso, un Midland, cos'è? Un Midland 80, non ha neanche Smitter. Giannave, se trasmette Giannave, già ti sento. Non ti sento forte come Gianni, ma già ti sento. Ma perché vedo, non ce l'ho più. Negativo già, negativo. Dato. Adesso me ne prendo un altro, di questa marca e me ne prendo un altro. Cosa ti compri, uno di quelli moderni? No, sempre il stile anni 80, mi piace l'analogico a me. A me tutti i cicosi, lui. Mi piace l'analogico, lo Smitter analogico, col lago. Io te l'appoggio, anche io l'ho preso come te. Beh, io sono andato, io devo portare giù il cane, vi saluto tutti cordialmente, non è più poca niente oggi. È entrato solo Luca, i due Luca, Luca Manicomio e Luca di Via Italia, e poi c'è la Pipia. Vabbè, no, vi saluto, statemi tutti bene e buona continuazione del prossimo. Ciao! Ciao, buona continuazione. Saluto Mattai, sono già lo sentivo poco fa che ti stava chiamando. Dici, io che ci sono le varanze che uno si incacuto. Poco passato sta facendo il moto, ho visto una Mantova, una casa passata vicino alla strada con una Mantova, la tua. Ma dove salendo a Sennori dalla strada secondaria? No, io mi sta proprio a Sennori. Guarda che dove c'è la salitona grande, via Sardegna si chiama lì, che ci sono le due antenne grandi 5G. No, dentro Sennori. Sono passato dentro Sennori, sono sceso dai bastioni e niente. C'è questa casa adiacente alla strada con una Mantova un po' più in alto, Sennori alta. Sì, ho capito. Non lo so se di chi è, però probabile che potrebbe essere anche delle forze dell'ordine, a Rusai, perché lì hanno una casa civetta. Ah, non lo so più. Va bene. D'accordo. Perché si mettono a, come si dice, a smirciare la scala, si vede tutta la scala lì di fronte, la passeggiata grande che c'è via Roma Superiore. Ah, uscire, andate. Va bene, dai, amico mio, io ti devo lasciare, che vado a cenare, dai. Ci sentiamo domani se coincide. Ciao e buona serata, ciao. Ciao Luigi, alla prossimine, andate, dai, allora buona ricarica e buon tutto. Se coincide già siamo con la radio accesa. Andate, ciao. Ti toccare di cambiare 380, ci sentiamo, ciao.